No, ma non no, sì, è da boh che non è una conduction. Una conduction. Però blind conduction. Guarda, vai a sparare il volume. No, no, it's okay. Okay. We wait 12 minutes. Ta va dice che è ok. It's okay. Calmo. Okay. Let's start again. Thank you. Thank you.